Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il segreto del successo della Riviera Romagnola, non certo una delle aree costiere più ricche di bellezze naturali del nostro paese, questo segreto lo conoscono tutti e sono i servizi. Ebbene, si direbbe che a Cervia siano seriamente intenzionati a mantenere questo primato. E per questo il comune, insieme alla locale cooperativa dei Bagnini e ad ERA, la multi-utility che si occupa di acqua, gas e rifiuti in quell'area della regione Emilia-Romagna, insieme, dicevo, hanno dato via un'iniziativa che potremmo definire come un primo esempio di smart beach, di spiaggia intelligente. Ci racconta tutto il direttore della struttura operativa di ERA di Ravenna, Tiziano Mazzoni, intervistato da Chiara Albicocco. Sentiamo. Sì, in questi giorni si è concluso questo progetto che è partito due anni fa circa, dalla presa d'atto che le strutture, le infrastrutture, in particolare dell'acqua, della zona costiera, cominciavano ad essere al limite, stavano collassando, per cui assieme alla cooperativa Bagnini, dal comune, ci siamo posti il problema non soltanto di ripristinare la funzionalità dell'acquedotto, della distribuzione dell'acqua pubblica, ma abbiamo deciso di estendere l'infrastrutturazione anche al gas e alla fibra ottica, quindi il wifi e quant'altro è possibile immaginare. Allora, direttore, andiamo con ordine. Mi sembra che il totale dell'investimento di questo progetto siano all'incirca 1.670.000 euro, quindi una bella somma. Partiamo dal progetto acqua. Che cosa avete portato sul litorale? Sul litorale abbiamo realizzato l'acquedotto per la distribuzione dell'acqua pubblica, dell'acqua potabile, su tutta la zona costiera, quindi per 9 chilometri di costa, e quindi consentendo l'allacciamento ai 220, oltre 220 bagni che sono qui collocati. Questo vuol dire che i bagnanti, quando arrivano, possono utilizzare le cosiddette casette dell'acqua, di cui abbiamo parlato anche qui a Smart City, gratuitamente, quindi allacciandosi all'acquedotto pubblico, e addirittura in alcuni punti anche l'acqua gasata. Sì, l'acqua potabile è presente in tutti i bagni e sono a disposizione di tutti i bagnanti. Poi in alcuni stabilimenti balneari sono stati installati degli apparecchi che ad un bassissimo costo, 50 centesimi al litro, consente di distribuire acqua refrigerata ed acqua gasata, questo sempre a disposizione dei turisti, dei bagnanti. Poi avete eliminato, come dire, le bombole a gas che sono più decisamente più pericolose. Sì, certamente. Prima di questo intervento gli stabilimenti che avevano un'attività di ristorazione, come lei sa, nella nostra costa la ristorazione spiaggia è forte attrazione, utilizzavano le bombole del gas, quindi sostanzialmente con livelli di sicurezza decisamente più bassi e anche di qualità del servizio decisamente più bassi. Abbiamo quindi realizzato la tubazione di distribuzione del gas e in questo momento tutti i bagni sono in condizione di allacciarsi. Attualmente ce ne sono già allacciati oltre 50, che sono poi quelli che hanno i ristoranti sostanzialmente, che possono quindi alimentare le proprie cucine con questo strumento energetico. Ecco, poi ciliegina sulla torta, il wifi su tutta la spiaggia, cioè sotto l'ombrellone possiamo leggere il nostro tablet, il nostro smartphone. Questo è proprio un benefit che sta diventando quasi fondamentale. Sì, questo è proprio l'estensione del concetto di servizio, nel senso che abbiamo predisposto i cavidotti per la posa della fibra ottica. La fibra ottica arriva in tutti gli stabilimenti balneari e consentirà via via che gli stabilimenti adotteranno questi servizi di poter avere immagini e informazioni sulla che viaggiano sulla banda larga, quindi un'altissima velocità e capacità di fruizione. Ovviamente, avendo a disposizione la fibra ottica, abbiamo potuto installare anche un impianto wifi. Sostanzialmente tutta la costa in questo momento ha a disposizione, tramite gli spot collocati in ogni tratto utile della costa, ha a disposizione appunto il wifi, quindi la banda larga senza il collegamento con il cavo, quindi lo smartphone piuttosto l'iPad potrà collegarsi ad internet internet, semplicemente accedendo alla rete tramite una tesserina. Il progetto si chiama Galileo e che può essere ritirato gratuitamente dal proprio bagnino. Sono stati coinvolti circa 223 stabilimenti balneari, sì, nella zona di Cervia, quindi Milano Marittima, Pinarella e così via. Avete intenzione di ampliarvi ancora? Ma in questo momento stiamo ragionando con le altre località turistiche per portare soprattutto la fibra ottica e quindi la banda larga e il wifi. In questo momento il litorale di Cervia, 9 chilometri di wifi e altre infrastrutturazioni di gas e acqua, è sicuramente la zona turistica più all'avanguardia d'Italia in questo momento. Soprattutto una zona che è ad impatto ambientale molto basso, perché con la distribuzione dell'acqua potabile, con le case dell'acqua e con i distributori di acqua potabile stiamo abbattendo drasticamente la quantità di bottiglie di plastica, stiamo abbattendo la quantità di chilometri necessari per trasportare acqua in bottiglie, quindi una spiaggia che è sempre più compatibile con le nuove esigenze dell'ambiente. Beh, non potevamo che parlarvi di spiagge in quest'ultima puntata di giugno di Smart City, ma non ultima della stagione. Ci risentiamo lunedì per l'ultima settimana di programmazione, poi ci daremo appuntamento a settembre. Buon fine settimana per intanto.